Mibali toko kufela kaona Kinshasa. Mibali bake seni mingie. Basusi aloku mugo. Basusi mibali esiva. Kolata toko mona kaona Kinshasa. Banda koko e bomba sekele. Basusu bako de fakao. Basusu bako ibaka. Kabaniga awana capital Eko suka kamakala ho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Mibali bake seni mingie Basusu ya lokumuho Basusu mibali eskiva Kolata toko mona kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele Basusu bako defakaho Basusu bako ibaka Kabaninga awana capital Iko suka kama kalaho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Alata se colata e paia sua mister. Move mai tonali popochini la capitale. Capital.